questo anche naturalmente per lo streaming. Indirizzo di posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info. Per quanto riguarda questo spazio in maniera più mirata, domani sul sito della radio e sulla pagina Facebook Prove Tecniche di Trasmissione / Disorder andrà chiaramente la replica, la registrazione, la playlist e il podcast conseguente. Ricordo ancora una volta il radio abbonamento per Radio Onda Rossa, 30 euro per 1000 ascoltatori, per un'iniziativa necessaria per l'esistenza di questa radio, già che le iniziative non riescono a coprire completamente queste spese. Ricordiamo, una radio da sempre, dalla sua nascita 1977, completamente autogestita. Allora, cominciamo con finiamo ovviamente con il dire che chi fosse interessato va sul sito, può andare sul sito e può cliccare sul banner specifico e scegliere la modalità che più si gradisce. E dunque andiamo a salutare Riccardo Bonati di Ascensio a Milano, Maya dalla Sardegna, Marco qui a Roma, Antonio Zoviet a Omicidio in quel di Firenze, la Val d'Aosta con Jean-Claude Berthaud, a Roma Paola e Antonella. Allora vado ad iniziare e mando direttamente la musica senza dire nulla. Mi limito a dire che è un doveroso omaggio. Per chi ama l'elettronica è un omaggio, sarà un omaggio gradito, credo e spero. Non dico nulla, ce l'andiamo ad ascoltare. Probabilmente queste due tracce estratte da The Man Machine forse sono un po' inflazionate, ma hanno significato tantissimo per loro e per noi, per chi ama la musica elettronica, già che qui stiamo parlando delle cosiddette basi del mestiere. Hanno, lo si può anche dire, inventato un certo modo di intendere l'elettronica e hanno influenzato tante tante generazioni. Naturalmente The Man Machine, Kraftwerk, Space Lab è il brano omonimo. Questo perché, come molti sapranno, il 6 maggio abbiamo saputo della morte di Florian Schneider, anche se forse, a quanto sembra, in realtà sembra sia morto qualche giorno prima, ma per una sorta di giusta privacy, la notizia è stata data qualche giorno dopo. Florian Schneider, fondatore, insieme a Ralf Hütter, in questo disco naturalmente insieme a Karl Bartos e Wolfgang Flügel, il quartetto più celebre, la formazione più celebre di Kraftwerk. Questo era un album del 1978 e personalmente ho avuto anche la fortuna di vederli in questa formazione all'inizio degli anni 80 qui a Roma. Ero abbastanza ignaro, lo ammetto, ma riuscii, come dire, ad entrare e a vedere questo concerto, dove non eravamo effettivamente in molti, ero in prima fila. Rimasi affascinato indubbiamente, ma forse, e devo ammettere, l'emozione più forte è stato quando li ho rivisti nel 2004, anche se in una formazione già rimaneggiata, dove avevano sviluppato anche il loro spettacolo di visuals eccezionale, devo dire. Attualmente è rimasto soltanto Ralf Hütter e speriamo. Loro dovevano fare anche una tournée per festeggiare il 50° anno di esistenza. Il tutto è andato a monte per note vicende legate al Covid, ma comunque, che si può dire, la lunga vita ci sarà sempre per te, perché le testimonianze rimarranno per sempre di questi maestri. Intanto saluto Gianluca Becuzzi qui a Roma, Lucia Cagliazza, Lupsi. Non so se l'ho detto, ma lo ridiciamo, non fa niente naturalmente. Ernesto Dark Phoenix qui a Roma. Marilena anche lei di Roma. E mi riprometto anche mercoledì prossimo di andare a pescare qualcosa di ancora più vecchio di Kraftwerk, qualcosa dai primi lavori che erano un pochettino più sperimentali, loro che venivano, o meglio si distinguevano dal calderone della Cosmic Music, dei Corrieri Cosmici tedeschi. Erano un discorso a parte e andrò a pescare qualcosa dei primi anni 70. Ma veniamo ai giorni nostri. Un progetto romano di recentissima uscita, si chiamano Free Plus Dead e incidono però per la Svizzera Swiss Dark Knight, un progetto in bilico tra Dark Wave e Cold Wave. È l'album d'esordio, uscito poco tempo fa. Ecco qua, novembre 2019, e cominciamo a conoscerli con la prima traccia dal nome Snake of June e la quarta dal nome November. La Dark Wave, la Cold Wave, direi incalzante di questo nuovo progetto romano dal nome 3 Plus Dead, anche con notevole freschezza, e non è facile, devo dire, tenendo conto del genere, un esordio sul finire del 2019, come ho detto, attraverso la Swiss Dark Knight, un'etichetta attivissima e che ha frequenti rapporti con gruppi italiani. Qui abbiamo Elisa Pambianchi alla voce, Roberto Ruggeri chitarra, sintetizzatore e arrangiamenti in genere, il basso pulsante di Giuseppe Marino. Un album che andremo anche a sentire con altri episodi le prossime settimane, peraltro contiene anche una cover molto particolare di Kebab Traume, naturalmente un brano dei Duff. Ricordiamo anche la scomparsa di Gabi Delgado, oltre che di Genesis P. Orridge, insomma un 2020 abbastanza pesantino anche da questo punto di vista. Buonasera, Roberto Faloci di Phantom Ship, un interessante progetto Dark Ambient che presto ci ascolteremo in prove tecniche di trasmissione. Un saluto a Simone Scalise, altra realtà Dark Wave, Audio Chaos. Loro però da Crotone. Dark Wave, e quindi naturalmente i riferimenti storici sono anni addietro, inevitabilmente la New Wave, la Dark Wave degli anni 80, e quindi anche per questa sera, ed è l'ultima volta, ci ascoltiamo tre passaggi da questa Gatorade, che fu una compilation storica proprio del 1982, che ha anche avuto parecchie ristampe soprattutto attraverso la Spittle Records, più recentemente nel 2007, naturalmente in digitale.